Petrovici il serbo, a casa in Craina, Andrić croato armato lo caccia dalla casa, Mitradović banca, gli ruba anche la terra, Danilović fugge e questa è la guerra. Roman Tiriac a casa, vicino a Sarajevo, Roman Tiriac a moglie e figli, e suona il suo violino. Arriva del mattino, gli ruba casa e terra, e questa è la guerra. Rom Tiriac, Rom raccatta, famiglia e pochi stracci, migra migrante migra e giunge qui da noi, a Roma fuori porta, in sito tor dei cenci, città di Dio, di Papa e di cristiane genti. Rom Tiriac fa baracca, spartisce poco pane, condito con dovizia di sporco e di fame, spartisce con i cari, spartisce con i razzi, Rom Tiriac suona come i disperati matti, Rom Tiriac suona tutto, si avvalza il polco samba, il borgomastro arriva, con Ruska e con Caramba, all'occhio fermo zombie da uomo del destino, e l'occhio del potente tra il tuggito e il cretino, all'occhio fermo zombie da uomo del destino, e l'occhio del potente tra il tuggito e il cretino, e l'alba della legge e del passamontagna, del nero che distrugge violenza e sua vergogna, distruggono baracche, la ruspa fa la storia, Rom Tiriac ora è nulla, è solo una memoria, memoria della casa sua e della sua terra, ma c'è un ministro bianco che con la sua santa guerra ricaccia Sarajevo, Rom Tiriac col violino, letteratura vuole sia questo il suo destino, migra migrante migra, gloria nei ciel fisteo, il borgomastro canta e questo è il giubileo, migra migrante migra, gloria nei ciel fisteo, il borgomastro canta e questo è il giubileo.